ancora, yeah. Nasce un fuoco nei motori e allora si parte. È natia, si accendono le luci. Rotto il ghiaccio, oh, parleremo coi fantasmi. Lo spettacolo deve ancora cominciare. Per teste piene, teste vuote, rimbalziamo con le note dello spettacolo. Lo spettacolo. Siamo la violenza, siamo il vento sui confini e le distanze. E c'è il rispetto quando ognuno può godere. Ah, questa notte, yeah, siamo i giocolieri in piazza. E lo lo spettacolo deve ancora cominciare. Per teste piene, teste perse, rispettiamo le differenze. La confidenza, ma un problema di coscienza. Piacere a tanta gente è una gabbia seducente. Ma lo spettacolo deve ancora cominciare. E lo spettacolo non ha scuse da inventare. E lo spettacolo si fa solo un po' aspettare. Lo spettacolo deve ancora cominciare. Lo spettacolo. Lo spettacolo. Che spettacolo. Grazie, grazie mille!